del mattino, sono sveglio già. Il corpo fa muro, la notte non va. Io conto i minuti e tengo duro. Oggi ci arrivo, te lo giuro. Mi giro piano, non sveglio chi c'è. Dentro mi mordo la lingua da me. Alle sei le pillole fanno via. Colori in fila, la mia terapia. Acqua giù, senza parole, non è poesia. È il motore, e a colazione io rinuncio, lo sai. Niente latte, niente yogurt mai. Guardo il tè che si fa scuro piano. Aspetta ancora gialla, non è un gioco. Alle 18 leggo ma mi scappa la testa. Allora chiudo gli occhi e ricomincio da questa. C'è ancora parte.